America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Un episodio orrendo ieri in Afghanistan, ovviamente lo avrete sentito alla radio, alla televisione, sui giornali. Un soldato, un sergente dell'esercito americano con metodo si è recato in un villaggio non lontano dalla sua base militare, dalla sua caserma, ed ha ucciso almeno 16 civili, 9 di questi bambini. Un sergente impazzito, chiaramente, un sergente che ha deciso di vendicarsi chissà di che cosa, non lo sapremo mai, forse lo sapremo dall'inchiesta, dal processo, ma il risultato finale è che dei civili sono stati uccisi dentro le loro case da un soldato. Questo è uno dei crimini peggiori che può succedere in una guerra. Ci auguriamo sempre di non dover leggere o ascoltare storie di questo genere, invece continuiamo ad ascoltarle purtroppo. Ecco, fare però un passaggio da un'azione criminale di questo genere a una colpevolizzazione della guerra contro i talebani nel suo insieme, come hanno fatto alcuni giornali italiani, secondo me diventa eccessivo. Occorre fare le distinzioni necessarie, perché episodi antipatici, odiosi, chiaramente si registrano, li abbiamo registrati nelle ultime settimane. Ricorderete tutti i soldati che hanno urinato sui corpi dei talebani, ricorderete l'episodio del Corano che è stato bruciato da soldati americani, ma perché questo Corano, insieme ad altri libri, era stato usato dai prigionieri per mandarsi dei messaggi, per organizzare delle rivolte. Dunque si era deciso che tutti questi libri, visto che non si riusciva a capire cosa c'era scritto in queste pagine, dovevano essere bruciati. Quando si è saputo che fra questi libri c'erano dei Corani, naturalmente c'è stata una reazione di orrore da parte degli afghani. Ecco, torno a dire, non si può fare di tutto un erba un fascio, sono episodi orrendi tutti, ma quello di ieri è un episodio inaccettabile. Barack Obama ha già chiamato Karzai, ha chiesto scusa, mortificato, ha detto di essere sotto shock e ha promesso giustizia. Ecco, credo che l'America a questo punto dovrà dimostrare, in questo caso, come non ha fatto in passato, purtroppo, di andare fino in fondo. America 24. We've had a very, very good day in our neighboring state of Kansas. Rick Santorum che rivendica la vittoria in Kansas alle primarie di sabato, una bella vittoria perché ha accumulato il 51,2% dei voti contro il 20,9% di Mitt Romney e il 14,4% di Newt Gingrich. Soprattutto si è conquistato ben 40 delegati, ma ci sono state altre elezioni in questo fine settimana in Wyoming, dove invece ha vinto Romney. Virgin Islands, Guam, Marianne, curiosità, le Virgin Islands hanno visto la prima vittoria di Ron Paul, che ha accumulato il 29,2% dei voti. E dunque, zitto zitto, anche se si tratta di elezioni minori, perché diciamolo, Guam sperduta nel Pacifico certo non è uno dei punti di riferimento per questo percorso verso la nomination repubblicana, ma dicevo, zitto zitto, qua e là, in questo fine settimana, in piccole elezioni, Romney è riuscito comunque a portarsi a casa una trentina di delegati, quindi il suo distacco da Santorum resta un distacco molto forte. Il conto totale dei delegati vede Romney a 454, Santorum 217, Gingrich 107, Paul 47. Ecco, Romney da solo ha più delegati di quanto non abbiano gli altri tre concorrenti insieme. Insomma, questo la dice lunga. Ci sono adesso le sfide del Mississippi, dell'Alabama, sfide in cui in teoria Santorum dovrebbe far bene. C'è adesso una battaglia molto diretta tra Santorum e Gingrich, perché Santorum vorrebbe che Gingrich se ne andasse in modo da poter occupare da solo tutta la posizione dell'ala destra del partito, ma Gingrich continua a dire che non se ne andrà. Ecco, io voglio dirvi oggi che se Gingrich non vince almeno il Mississippi o l'Alabama, uno dei due, se non ha una vittoria, beh, credo che sarà molto difficile per lui continuare ad andare avanti. Dunque aspettiamoci questa settimana il ritiro di Gingrich. Lo dico perché? Beh, perché non credo che abbia possibilità di vincere nessuno dei due stati. Romney in realtà conduce, nonostante sembrasse che fosse in minoranza, sia in Mississippi che in Alabama, almeno nei sondaggi. Santorum è comunque secondo, soprattutto in Mississippi. Ecco, la corsa a questo punto è abbastanza definita, secondo me. Torno a dire, Romney diventa il candidato inevitabile, nonostante le scaramucce all'interno del partito, nonostante le battaglie della destra, nonostante quello che è riuscito a fare, sicuramente ammirevole, Rick Santorum. Ma andiamo sul campo, andiamo in Alabama, in Mississippi, dove abbiamo con noi in linea Andrea Marinelli. Buongiorno Andrea. Buongiorno Mario. Eccoci, allora Andrea, sei in Alabama? Sì, sono a Birmingham, Alabama in questo momento. E ieri dove eri? In Mississippi? L'altro ieri ero in Mississippi. Andrea, raccontaci il Mississippi, sei stato in giro dove e come? Sono arrivato all'aeroporto di Biloxi 3 giorni fa e ho cominciato a girare con la stampa di Romney, con la traveling press di Romney sull'autobus, e siamo andati prima al porto di Pascagoula, dove Romney ha ricevuto l'endorsement del governatore Bryant, e poi dopo siamo andati a Jackson, sempre in Mississippi, dove la mattina seguente ha fatto un town hall meeting al mercato ortofrutticolo della città, quindi era abbastanza curiosa come atmosfera. Ecco, raccontaci il Mississippi, come sono gli abitanti del Mississippi, com'è il Mississippi? Il Mississippi è il tipico stato del sud, è molto umido, ci sono zanzare, ci sono tutti questi edifici bassi, dei capannoni ai lati della strada, le luci al neon, poi c'è Biloxi che è una specie di Las Vegas del sud, e poi la gente è molto sanguigna e molto simpatica anche, hanno sempre una risposta affascinante alle domande che gli fai. Un signore ha chiesto perché avrebbe votato per Romney e mi ha detto che sì, era il migliore in campo, però diciamo che i suoi preferiti o non si erano candidati oppure erano morti. Ho capito, senti un po', ma ci ha dato comunque una notizia che il governatore del Mississippi si è schierato con Romney, questo signore con cui hai parlato votava per Romney, quindi come ci dicono i sondaggi Romney sembra essere in vantaggio in Mississippi. Sì, a quanto ho visto l'endorsement del governatore Bryant è stato importante, e diverse persone mi hanno detto che l'endorsement del governatore Bryant li ha convinti a votare per Romney domani. Adesso dove sei? Questa mattina sentiamo dei rumori di sottofondo, stai facendo breakfast da qualche parte, immagino. Sono a Birmingham, sto facendo colazione con questo bacon grasso e sgocciolante, e qua intorno a me ci sono tutte queste persone molto caratteristiche, questi visi scavati profondi del sud. Ecco, l'Alabama anche lei è schierata con Romney? L'Alabama è molto più combattuta, anche secondo gli ultimi sondaggi, diciamo una corsa a tre tra Santorum, Gingrich e Romney. Oggi viene qua la moglie di Romney, Ann Romney, mentre lui sarà a Mobile questa mattina. Nel pomeriggio arriveranno qua proprio a Birmingham sia Gingrich che Santorum, che terranno una specie di mini dibattito. Diciamo che tutti puntano molto sull'Alabama, che è l'unico stato che tutti possono conquistare, a cui tutti possono ambire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, sapete chi passeggiava per New York ieri? Una giornata spettacolare, devo dire, un sole splendido, soprattutto una giornata primaverile perché è cambiata l'ora. Siamo già un'ora avanti, quando sono le 7 è ancora chiaro, dunque sembra di essere entrati in estate. Chi passeggiava per le strade di New York? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen era a New York perché sabato notte ha debuttato con il suo nuovo tour, ha debuttato lo storico Apollo Theater e passerà tra l'altro il 7 giugno in Italia allo stadio Meazza. Dunque di Bruce Springsteen, Promised Land. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.